Salva Danaio di Deborah Rosciani. E buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti, anzi ben ritrovati a Salva Danaio. Stamattina torniamo ad occuparci dei nostri risparmi e dei nostri investimenti, nella piena consapevolezza che molti di voi hanno tentato di staccare il cervello dalle preoccupazioni di tutti i giorni. Siamo anche certi del fatto che invece per qualcuno questo argomento è costantemente nei propri pensieri, perché i mercati ci hanno insegnato negli ultimi anni a non abbassare la guardia e a fare una, come dire, manutenzione costante del nostro risparmio, piccolo o grande che questo sia. 2 anni fa, in questo periodo, lo ricorderete bene, lo spread ci teneva sotto scacco, per non parlare di quello che poi è successo nell'autunno del 2010, del 2011, e quelle circostanze ci hanno insegnato che anche l'evento economico che ci appare tanto distante in realtà può andare a movimentare, e anche non poco, i nostri investimenti. Oggi, in linea con la nuova rubrica che da qualche giorno propone il Sole 24 Ore, il tuo portafoglio, oggi anche noi torniamo sul tema check-up del nostro portafoglio. Il Sole 24 Ore in questi giorni ha toccato diversi aspetti, dallo stato di salute di Piazza Affari. In questi giorni, come sapete, sono in corso di pubblicazione le trimestrali delle principali società quotate. Poi è stato affrontato anche il tema americano, con Wall Street sui suoi record e, secondo qualcuno, pronta ad accogliere l'esplosione di una bolla, e poi tutta l'Asia con i riflettori puntati sul Giappone ma anche sulla Cina. E allora, in virtù di tutto questo e tutte le notizie che ancora chiaramente caratterizzano le pagine della cronaca finanziaria quotidiana, che riflessioni avete fatto in queste settimane? 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta. Con noi questa mattina Francesco Leghissa, responsabile dell'ufficio studi di Copernico SIM. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. E benvenuto anche a Giovanni Brambilla, amministratore delegato di Acome ASGR. Benvenuto anche a lei. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, prima di tutto questo, però, prima di parlare di scenari generali e del nostro portafoglio e del nostro risparmio, un'occhiata alla giornata di borsa. La giornata era partita meglio, gli indici europei stavano tentando di consolidare i rialzi di ieri, soprattutto su Milano, che poi ha invertito la rotta. Adesso il FTSE MIB perde lo 0,44%, flessione più contenuta per gli altri listini: Parigi meno 0,11%, Francoforte meno 0,20%, Londra più 0,28%, l'euro sul dollaro a 1,3380, buone notizie sul differenziale fra Italia e Germania sul titolo decennale, lo spread stamattina è finito sotto i 250 punti base, siamo a 248 con il rendimento del titolo decennale che è al 4,20%. Buona la notizia che è arrivata dalla Cina, con la produzione industriale che a luglio ha registrato un rialzo del 9,7%, buono anche il dato sulle vendite al dettaglio. A Milano, occhi puntati su Monte dei Paschi, che rimbalza dopo il calo di ieri per il titolo senese più 0,8%, fino a poco fa faceva anche un po' meglio. Azimut ancora sugli scudi più 0,8%, Finmeccanica più 0,8%, TOZ anche oggi in rialzo dello 0,7%, per il gruppo che ha comunicato dei risultati di bilancio che sono stati particolarmente apprezzati dal mercato. Stamattina una raffica di giudizi positivi da parte di molte case di investimento e banche d'affari. Il netto calo invece Fondiaria, meno 3,36%, quale notizie sono relative alla decisione di Unipol ieri, con un blitz appunto comunicato appunto a mercati chiusi. Ha concluso il gruppo assicurativo appunto bolognese l'acquisto di azioni di Milano Risparmio, e però appunto il titolo della compagnia di assicurazioni scende, poi magari cercheremo di capire perché. STM meno 1,84%, Popolare di Milano meno 1,76%, Luxottica meno 1,68%. Direi che per la borsa è tutto per quello che riguarda questa giornata. Sentiamo però cosa è accaduto negli ultimi tempi e soprattutto che scelte di investimento fanno in questo momento le famiglie italiane. Rilassarsi almeno d'estate è d'obbligo, ma è il momento di prendersi una vacanza anche dai mercati e tornare a settembre? L'esperienza passata ha insegnato a non abbassare mai la guardia e anche quest'anno meglio tenere gli occhi aperti. Le giornate di analisti e risparmiatori iniziano di prima mattina guardando all'Asia, e in particolare alla borsa di Tokyo, reduce da forti frenate. A pesare in generale sui listini asiatici, oltre ai segnali di rallentamento dell'economia cinese, i timori che la Federal Reserve, già a settembre, possa cominciare la graduale uscita dal programma di stimoli monetari, operazione chiamata tapering. I mercati temono che stia per finire l'euforia di borsa, a cominciare dai record di Wall Street, dove lo Standard & Poor's una settimana fa ha superato 1700 punti, toccando il record storico. Da tempo aleggia il rischio di una bolla, nella consapevolezza che dietro lo sprint di borsa ci sia la liquidità immessa dalle banche centrali, più che l'economia reale. L'uscita dal programma di stimoli monetari potrebbe essere prematura, con la ripresa statunitense non ancora in grado di camminare da sola. E da questa parte dell'Oceano Atlantico? La Banca Centrale Europea ha confermato ieri che l'orientamento di politica monetaria resterà accomodante finché sarà necessario. Si attende poi i tassi di interesse di riferimento su livelli pari o inferiori all'attuale 0,5% per un periodo prolungato. Una decisione basata su prospettive di inflazione deboli nel medio termine. E con un'inflazione che almeno ora non fa paura, vale la pena, secondo alcuni analisti, giocare d'anticipo. Guardando all'Italia, sono ritenuti interessanti i BTP Linker, titoli collegati all'inflazione europea. Offrono un extra rendimento rispetto agli equivalenti BTP ordinari e proteggono da fluttuazioni inflazionistiche in Europa. Legati invece all'inflazione italiana, i BTP Italia, titoli quadriennali adatti a piccoli risparmiatori. Con il costo della vita a livelli bassi, questi titoli rendono poco più del 3%, ma c'è il vantaggio di una rivalutazione periodica del capitale e non al momento del rimborso. Per chi vuole puntare sull'azionario, sono consigliati i settori immuni dall'andamento dell'inflazione. I servizi, le reti di distribuzione, elettriche, di telecomunicazioni e dei trasporti e il settore immobiliare. Per le vostre domande il numero verde è sempre lo stesso, è l'800240024. In alternativa ci potete scrivere dei messaggi al 349-238-6666, come ha fatto Lino, che chiede un suggerimento se sia il caso di investire in obbligazioni in dollari. Purtroppo dice: ho un po' di dollari, Lino, non è mica una cosa così negativa averne un po'. Oppure scriveteci se volete all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Siamo attivi anche su Facebook, il nostro profilo è salvadanaio-radio24 e anche su Twitter @salvadanaio24. Allora, da cosa cominciamo? Intanto volevo ricordare che come ASGR è la società che, lo ricorderete, nei mesi passati ha fatto una grande battaglia sul tema della mini patrimonialina. Abbiamo fatto tante trasmissioni appunto con Alberto Foà, che è l'altro socio appunto fondatore di questa azienda. Chiusa parentesi, però ci pareva appunto corretto ricordarlo, perché tra l'altro è una battaglia, Brambilla, che sta ancora andando avanti. Assolutamente sì, è una battaglia che stiamo portando avanti, perché crediamo che sia assolutamente un'imposta questa, che ha due problematiche. Innanzitutto è iniqua perché è regressiva e addirittura arriva anche a livelli di confisca, perché chi ha pochissimi risparmi al di sotto dei 100 euro è assurdo che ne paghi 34,20. E poi è anche un'imposta che sulla cui diciamo costituzionalità ci sarebbe da dire qualcosa. Mm-hmm. Insomma, un'imposta che va a toccare il risparmio delle persone, soprattutto laddove i risparmi sono i risparmi di una di fatiche, di lavoro, obiettivamente può essere vista con degli aspetti di non costituzionalità. Allora, noi l'abbiamo ricordata, per chi volesse saperne qualcosa di più, anche ora attivo il vostro sito, se non ricordo male, www.risparmiamocelo.it o com. Sì. .it. Perfetto. Allora, intanto parliamo invece dei risparmi delle famiglie italiane. Allora, in molti contestano un po' tutte le volte che proponiamo una puntata su questo tema, ma di quali risparmi parlate? Siamo sempre più in difficoltà, in molti non arriviamo appunto alla fine del mese, invece in realtà il risparmio degli italiani per fortuna ancora ha uno stock consistente, e quindi il tema adesso è proteggerlo al meglio, conservarlo al meglio, cercare di individuare con chiarezza tutti i rischi che potrebbero emergere, come dire, sui mercati in autunno. Allora, Brambilla, comincio con lei, poi andiamo alle Ghissa, perché lei è specializzato soprattutto sul tema dei mercati emergenti, e in questi giorni, sì, da qualche mese a questa parte, da aprile in particolar modo, abbiamo puntato con grande forza un riflettore sul Giappone. Intanto è un tema di investimento gettonato dagli italiani, almeno secondo quello che è il vostro osservatorio con i vostri fondi di investimento. Ma diciamo che il Giappone, insomma, negli ultimi 10-15 anni non è che abbia dato grandi soddisfazioni agli investitori. È sicuramente un mercato estremamente, soprattutto nei mesi scorsi, prima di questo grosso rimbalzo, estremamente sottovalutato, estremamente fuori moda, e quindi diciamo un mercato su cui noi, proprio come investitori value e contrarian, abbiamo puntato in maniera abbastanza decisa. E sicuramente il fatto che sia andato bene negli ultimi mesi ci ha permesso di fare dei buoni ritorni sui nostri fondi. sia sul fondo specializzato Pacifico che anche sui fondi globali e flessibili, dove la presenza del Giappone è importante. Una corsa che, lo ricordiamo, anche qui è stata scatenata dalla decisione molto interventista in maniera prepotente della Banca Centrale, appunto, del Giappone. Certamente, che si è allineata, anzi addirittura credo che sia andata oltre nelle prospettive rispetto alle alle politiche effettuate dalla Fed e dalla BCE. E quindi sono questi eventi che giungono così un po' improvvisi sul mercato a scatenare delle reazioni molto forti, soprattutto su quei mercati che sono particolarmente depressi e sottovalutati. Quindi ecco perché continuiamo ancora oggi a consigliare per chi ha la capacità, la possibilità di poter avere delle azioni nel proprio portafoglio, di detenere almeno una parte del proprio patrimonio azionario all'interno del mercato giapponese, un 10-15% di quella che è la componente azionaria. Sempre nella consueta ottica della diversificazione, che anche qui spingiamo molto, anche se lì poi altra contestazione, che gli ascoltatori ci muovono spesso, non è che possiamo polverizzare completamente il nostro portafoglio, perché significa oneri, commissioni, quindi bisogna fare delle scelte molto intelligenti. Vabbè, certamente, però investendo attraverso fondi che sono già diversificati di per sé, oppure investendo in strumenti come anche gli ETF, voglio dire, si ha già una certa diversificazione con un solo strumento, quindi da questo punto di vista non è il caso di andare a polverizzare il portafoglio su 100-150 titoli, come invece avviene attraverso i fondi. Ecco. Allora, Francesco Leghis, responsabile dell'ufficio studi di Copernico SIM, le chiedo, ritornando un po' all'interno di confini con i quali abbiamo più confidenza, appunto, lo spread fra il BTP e il Bund 2 anni fa ci ha fatto innervosire un po', soprattutto gli investitori professionali, perché devo dire che la media delle famiglie italiane fino a quel momento non aveva mai sentito parlare del differenziale fra Italia e Germania. L'ho detto mille volte, forse neanche noi giornalisti abbiamo mai raccontato, così come abbiamo fatto negli ultimi 2 anni, come stava andando questa differenza di rendimento fra i titoli, fra i BTP italiani, appunto, e il Bund tedesco. Detto questo, stamattina siamo andati sotto 250 punti base. È una buona notizia, secondo lei? Una notizia, come dire, sufficientemente tranquillizzante per tutti? Che si siano stabilizzati intorno a valori accettabili come i 250 punti base è una notizia abbastanza positiva, anche se sembra che per il momento i mercati si siano un po' dimenticati del nostro debito pubblico e del nostro obbligazione governativa. Che è ben stabile sopra i 2.000 miliardi, tra l'altro. Ecco. E anche il rendimento del decennale comunque rimane intorno più o meno ai 4,20%, in quanto lo spread è vero che si è compresso, ma non tanto per il calo del rendimento del nostro BTP a 10 anni, ma più che altro per la salita del rendimento del Bund tedesco, in quanto lo spread è un differenziale, di conseguenza può ridursi o perché si riduce il rendimento più alto perché si alza quello più basso. C'è stata una fuga importante dall'obbligazionario tedesco, che aveva raggiunto rendimenti reali praticamente negativi. Bastano 250 punti a tranquillizzarci? Secondo noi no, potrebbe essere interessante e tranquillizzante uno spread sotto i 200 per un paese come l'Italia, ma 250 siamo ancora sul livello di guardia, anche perché il merito di questa stabilizzazione dello spread molto probabilmente è della nostra Banca Centrale Europea, delle manovre di Mario Draghi, che ha un po' tranquillizzato i mercati con quella frase ormai di un anno fa dove sosteneva faremo che tutto quello di cui c'è bisogno. Esattamente, frase che ormai credo sia entrata nella storia a livello di banchieri centrali. E ora l'altro compito è l'Italia, cioè l'altro lato è rendere e convincere anche dal punto di vista politico e strutturale gli investitori che l'Italia è un paese che può tornare a livelli di spread, a livelli di rendimento più simili a quelli che si chiamano i paesi core europei, quindi Germania e Francia in particolare, o comunque i paesi nordici, e per fare questo deve dimostrare di essere in grado di riformare i suoi limiti strutturali, oltre che tenere sotto controllo un debito pubblico che comunque sta continuando a salire. Certo. La sfida attualmente è politica, e per fortuna che abbiamo un banchiere centrale che ha avuto per ora il coraggio di tranquillizzare i mercati e che crede fortemente nella valuta unica. E di intraprendere anche delle iniziative non convenzionali, addirittura al punto da, non rispettare neanche lo statuto della Banca Centrale Europea, lavorando davvero al limite. La buona notizia però, Leghis, sul fronte spread, è sempre quindi rendimento dei titoli di Stato italiani, che il Tesoro italiano ha collocato praticamente circa il 70% di tutto il fabbisogno di quest'anno, per cui i prossimi appuntamenti dovrebbero essere leggeri, no? Questa non è una cattiva notizia, no, si è avvantaggiato di tassi bassi. più conveniente. Sì, la gran parte, soprattutto sfruttando emissioni con scadenza relativamente contenuta, la prossima sarà martedì prossimo con un 7-7 miliardi e mezzo di bot, per poi riprendere probabilmente a fine mese, quindi ci sarà una piccola pausa ad agosto, ma ha approfittato effettivamente della calma o dell'attenzione degli investitori spostata altrove, perché al momento, ripeto, il nostro mercato obbligazionario non sembra essere nelle principali preoccupazioni degli investitori, che stanno guardando più che altro le politiche monetarie delle banche centrali, e il nostro governo ha approfittato per rifinanziarsi a tassi tutto sommato abbastanza contenuti, anche se a costo di accorciare leggermente la vita media del nostro debito. E questo potrebbe essere un relativo vantaggio nel caso ci fosse un miglioramento della situazione strutturale nel breve e medio periodo, però se le cose non dovessero cambiare, non si dovesse procedere in quello che ci sta chiedendo anche l'Europa ormai da quella famosa lettera della BCE del 2011, nel momento di essere finanziare, se dovessero peggiorare le cose, potrebbe anche risultare un problema. Allora, intanto abbiamo toccato, così, anche se ancora superficialmente, il Giappone, la zona euro in realtà con un focus sull'Italia. Adesso ritorniamo invece in un'altra area che sta naturalmente attraendoci un po' per le vacanze, questa, quella degli Stati Uniti, ci piace sempre per questo motivo, un po' perché naturalmente è un'area che sta riprendendosi dal punto di vista economico, e però è un'area sotto forte osservazione perché insomma la Banca Centrale Americana sta continuando a promettere, lo dice, poi ritira un po' il discorso perché i mercati si spaventano, però prima o poi tutta la liquidità che negli ultimi anni la Federal Reserve ha messo sul mercato prima o poi la dovrà ritirare, e entro breve appunto inizierà questo piano di riduzione dello stimolo monetario. Che tipo di impatto ci sarà sul dollaro, per esempio? Fabrizio da Firenze, nostro primo ascoltatore di oggi, buongiorno. Sì, buongiorno. Molto semplicemente, io avendo una somma piuttosto importante da investire, io ho ritenuto che l'investimento in dollari nel medio-lungo termine probabilmente sarà quello più proficuo e più sicuro, perché prima o poi il dollaro si apprezzerà. Per fare questo ho aperto un conto corrente in dollari. Proprio per un discorso di liquidità e quant'altro non sono andato né in ETF, né sono andato sul conto corrente in dollari, e poi vorrei un'osservazione dall'analista. Grazie. Un commento su questa scelta, Fabrizio. Beh, intanto bisognerebbe un po' conoscere, Giovanni Brambilla, tutta la composizione del portafoglio appunto investito da questo ascoltatore, conoscere le ragioni per cui ha fatto una scelta di questo genere, ma appunto escludendo tutto questo ragionamento, concentrandoci solo sulla scelta di investire con un conto corrente sulla valuta statunitense. Sì, beh, questa premessa è importante, perché comunque investire su una sola asset class non è mai consigliabile, anche se è la migliore che potremmo avere. Ammettendo che Fabrizio ce l'abbia, abbia una diversificazione più ottimale possibile. Certamente, ci sono due aspetti da considerare, un aspetto relativo a quello che è il rendimento dell'asset class, l'altro aspetto in questo caso relativo alla valuta. Perché il conto corrente ovviamente avrà una remunerazione che è tendente allo zero, quindi in termini reali il potere di acquisto di questo risparmio va a deprimersi nel tempo, perché a fronte di un'inflazione diciamo tendenziale europea tra l'1,5 e il 2 abbiamo un rendimento del conto corrente in dollari che è pari a zero. Poi c'è l'aspetto valutario, sul quale ovviamente si possono andare a fare tutta una serie di previsioni rispetto a quelle che sono le conseguenze del cosiddetto tapering, cioè del rallentamento dello stampare nuova moneta. Quindi la nuova moneta ci sarà, ma sarà i riacquisti sul mercato secondario saranno sempre minori, fino a portarli a zero. È sicuramente una politica che richiederà dei continui e costanti aggiornamenti, proprio perché la Federal Reserve è molto attenta a far sì che le cose avvengano in maniera graduale, quindi i dati che usciranno sia dal mercato del lavoro che dal mercato immobiliare che dalla crescita saranno dati che andranno ad influenzare e a ritoccare questo tipo di politica aveva agganciato la Banca Centrale Americana a questo obiettivo di tapering, di riduzione appunto alla disoccupazione. Esattamente, il mercato del lavoro è una variabile molto importante che viene tenuta in alta considerazione da parte della Banca Centrale Americana. Quindi per venire un pochino alla risposta, sicuramente nel lungo periodo questo tipo di politica, se fatta solo ed esclusivamente dalla banca centrale, potrebbe portare da libri accademici ad un rafforzamento del dollaro. Bisogna poi vedere come questa politica verrà effettuata, quali saranno gli aggiustamenti e soprattutto se ci saranno reazioni da parte delle altre banche centrali, perché ovviamente il rapporto del dollaro va rispetto alle altre valute. Quindi se dovesse esserci una paritetica politica da parte della Banca Centrale Europea, ovviamente il dollaro non ha motivo di rafforzarsi in maniera particolare rispetto all'euro. Ecco, io in generale tendo sempre a stressare l'aspetto valutario, proprio perché noi comunque viviamo con l'euro, consumiamo con l'euro, e andare a fare investimenti in valute diverse da quelle che sono le nostre o hanno dei rendimenti particolarmente attraenti, oppure in generale fare una scommessa su una valuta, seppure il dollaro americano, è sempre un qualcosa che ci allontana da quello che è il nostro reale potere d'acquisto, che è l'euro. Mi sembra un suggerimento di gran buonsenso. Non possiamo condividere con Francesco Leghissa, perché non ci può vedere collegato con noi telefonicamente, ma con Giovanni Brambilla ci stavamo un po' così sorridendo, ma tra virgolette neanche tanto, sulle considerazioni che stanno arrivando da parte degli ascoltatori. E c'è chi ci scrive: i mercati finanziari si muovono in modo scollegato dall'economia reale, ma solo in una logica di pura speculazione, pertanto ogni previsione è inutile. Questo è vero, perché altrimenti non sarebbe scoppiata la famosa crisi del 2008 con i mutui subprime. I mercati finanziari oggi, Francesco Leghissa, lo chiedo a lei, si muovono in modo un po' più collegato del passato appunto all'economia reale, o no? Continua ancora questo scollamento? Tutto sommato non ha torto l'ascoltatore. No, io in parte in realtà condivido la riflessione fatta dall'ascoltatore, perché effettivamente le motivazioni che a volte muovono i mercati finanziari, soprattutto su orizzonti di breve periodo, sono spesso scollegati dalla realtà dell'economia reale, quindi della parte direttamente produttiva o di un paese. Nel lungo periodo ovviamente le due realtà della sfera economica dovrebbero avvicinarsi, ma soprattutto nei periodi più corti, e se stiamo a guardare soprattutto i listini azionari, senza andare a scomodare mercati particolari come quelli delle materie prime o degli strumenti derivati, spesso si trova una bassa correlazione tra cosa effettivamente accade sulle economie nazionali e quello che accade agli indici azionari. C'è da dire che non sempre ovviamente le aziende reagiscono alle notizie riguardanti l'economia nazionale, perché dipendono spesso dove vanno a fare la maggior parte dei profitti. Tanto per concretizzare un po', magari Leghissa la considerazione: Wall Street continua ad essere sui massimi, anche se negli ultimi 3 giorni ha ritracciato, ma gli indici stanno posizionandosi appunto e mantenendosi su record storici. L'economia statunitense è in ripresa, ma è una ripresa tale da giustificare questi record dei listini? In realtà è quello che si stanno chiedendo un po' gli investitori in queste ultime settimane. È vero che abbiamo toccato i record massimi su alcuni indici americani, ma la correzione che abbiamo visto in questi giorni è proprio una correzione in attesa di vedere se la crescita degli utili trimestrali americane, che hanno battuto sì le stime, ma oggettivamente ci voleva poco, in quanto le stime degli analisti erano piuttosto basse, contenute, le pretese sono in erano grado di tenere questo tipo di crescita. Mm-hmm. L'economia americana sì, sta crescendo, ma non a livelli da giustificare effettivi massimi. Quello che guida il mercato azionario, non solo statunitense, ma direi quasi a livello globale in questo momento, sono le banche centrali, quindi sono le politiche monetarie che hanno sostenuto i listini e i mercati finanziari negli ultimi 2 anni, quindi quando si è cominciato a rivedere una piccola uscita dagli anni più duri della crisi. Certo, hanno aiutato molto, ma forse insomma questa dipendenza comincia ad essere anche un po' esasperata ed eccessiva. Vuole concludere, poi andiamo a Bruno? Sì, perché non abbiamo visto neanche un collegamento così diretto ed efficace con l'economia reale, effettivamente, visto l'impegno della Fed nella mettere liquidità sul sistema, la crescita offerta dall'economia statunitense diciamo che non fa gridare al miracolo. Mm-hmm. Allora, Bruno da Bologna ci riporta sulla terra. Bruno, buongiorno. Buongiorno. Eccoci buongiorno qua lei. Ci dica. Dunque, io un anno fa sono stato licenziato dall'azienda per cui lavoravo. E questo ci dispiace molto, Bruno. E all'età di 46 anni mi è stato impossibile trovare un lavoro come dipendente. Mm-hmm. Attualmente lavoro come professionista e la mia professionalità mi permette di tirare avanti, nonostante il momento di crisi sia difficile trovare certo, a lavorare. Comunque insomma non si è abbattuto totalmente, Bruno. Ha rimesso sul mercato la sua professionalità. Anche per la famiglia, giustamente. E un mutuo sulle spalle, bisogna cercare di muoversi. Mm-hmm. E è proprio questa la domanda. Io l'unico modo per investire il bonus uscita che ho avuto dalla ditta per cui lavoravo è stato tramite dei conti deposito. Mm-hmm. Che mi hanno dato il 3-3,5% annuo, che mi ha permesso di pagare, per intenderci, due rate di mutuo all'anno. Uh-huh. E il mio consulente finanziario, che ho usato in passato, mi dice: ma no, i conti deposito non sono la soluzione ideale, bisogna trovare qualcos'altro, però al momento mi sembra sia l'unica soluzione che dia una certezza sia sul capitale che certo, diciamo che il valore sicuramente di questi prodotti di investimento molto gettonati dalle famiglie italiane negli ultimi due anni è proprio quello della certezza. Tu investi 50 e sai che fra un anno hai appunto sul conto corrente accreditata quella cifra, quindi sicuramente c'è certezza, non c'è volatilità rispetto, se vogliamo considerare appunto il rendimento di un conto di deposito rispetto al rendimento di altre asset di investimento. Bruno, la sua è una riflessione appunto molto interessante, perché Giovanni Brambilla, diciamo che molte famiglie negli ultimi anni hanno cercato proprio questo, fare in modo che il proprio risparmio diventasse quella fonte che potesse produrre una tredicesima nel corso dell'anno, appunto una super cedola, qualcosa con cui integrare il reddito, ed è l'esigenza appunto primaria delle famiglie che ci ascoltano. Che cosa possiamo dire a Bruno? Il consulente finanziario farà un po' i suoi interessi, non dà un'indicazione fuori luogo, però il tema è capire quale altro prodotto di investimento gli può dare la stessa garanzia. Ma credo che innanzitutto sia importante capire le esigenze dell'ascoltatore relativamente al proprio risparmio. Ovviamente non si può pretendere dal proprio risparmio che generi un reddito costante nel tempo che possa permettere di supplire alla mancanza di lavoro. E per cui il risparmio è un qualcosa, cioè la gestione del risparmio in maniera corretta deve generare un qualcosa in più rispetto a quello che è il potere di acquisto del denaro. In fin dei conti, il risparmio è una rinuncia che si fa oggi mm-hmm. al consumare per poter consumare qualcosina di più domani. Detto questo, come premessa, poter consumare lo stesso. O poter consumare lo stesso, infatti. Ovviamente l'idea è quella di avere qualcosina di più per consumare domani. È ovvio che la diatriba tra l'avere la certezza di un rendimento e l'importanza di questo rendimento ovviamente stridono un pochino, perché laddove noi vogliamo avere un rendimento superiore dobbiamo accettare, ahimè, un pochino di rischio. Se vogliamo avere una certezza di rendimento, dobbiamo rinunciare ad un rendimento superiore. Quindi più stiamo su attività a basso rischio, e il conto di deposito è un'attività a bassissimo rischio, non è a zero rischio, no, ricordo, c'è il rischio perché emittente, certo. C'è il rischio emittente dietro, per cui esattamente come l'investimento in un titolo di Stato, come il BOT o il CCT a breve scadenza, sono comunque dei rendimenti, ci sono comunque degli investimenti che hanno rendimenti bassi, ma diciamo abbastanza certi. Quindi da questo punto di vista bisogna tenere in considerazione questa diatriba. Quindi il consiglio è di avere ben chiaro quello che noi vogliamo avere dal nostro risparmio. Se vogliamo avere poco e sicuro, pochi maledetti e subito, poco o quasi e sicuro, subito. Dobbiamo stare su strumenti diciamo a basso rischio. E a questo esatto, punto che possono il conto di deposito liquidati esatto, anche molto esatto. velocemente. Conto di deposito, un fondo a breve termine, l'investimento diretto magari in titoli di Stato a breve come mm-hmm. i BOT o i CCT, che danno diciamo un minimo di rendimento. Quello che va tenuto in considerazione è anche, soprattutto sui conti di deposito, il problema legato al vincolo. Perché i conti di deposito sono strumenti che danno sì la certezza di avere il 3-3,5%, ma obbligano a rimanere vincolati per un determinato periodo. Mm-hmm. Se in questo periodo di vincolo ci fosse la necessità di dover smobilizzare questi risparmi, ecco che questo rendimento, nella maggior parte dei casi di questi tipi di conti di deposito, certo, tende ad azzerarsi completamente, perché i costi di uscita sono uguali o quasi al rendimento e che ho. E poi non ci dimentichiamo appunto che le banche stanno continuando ad offrire remunerazioni interessanti su questi prodotti, perché ancora non c'è una condizione ottimale di raccolta sul mercato, appunto. Quando sì, magari il mercato si stabilizzerà completamente, i rendimenti sui conti di deposito cominceranno appunto a scendere in maniera vistosa, e quindi lì ci sarà proprio l'obbligo di cercare qualcosa di alternativo. Francesco Leghissa, mi piacerebbe sentire anche la sua opinione sul caso del nostro ascoltatore, perché sono certa che abbia parlato anche a nome di molti altri nella medesima condizione. Sì, il conto deposito è andato particolarmente di moda negli ultimi anni, perché gli investitori italiani hanno cercato un rendimento tra virgolette certo per andare a sostituire i portafogli di Stato, che di colpo sono diventati asset percepiti come estremamente rischiosi. Ovviamente le alternative per un conto deposito ci sono, le offerte sono molto allettanti, perché come diceva giustamente lei, la capacità di raccolta delle banche è ancora limitata, e quindi sono andate a sostituire quello che prima raccoglievano attraverso le emissioni bancarie attraverso i conti deposito. Per cercare alternative a una remunerazione di questo tipo, quindi a una sorta di flusso cedolare annuo, da quello che ho capito dall'investitore, può essere un investimento in obbligazioni oppure un fondo chiuso a scadenza, il cosiddetto buy and hold, che praticamente tende a replicare un portafoglio diversificato di obbligazioni, cercando di garantire un flusso cedolare annuo e il proprio capitale investito a scadenza. Tutti questi strumenti, come giusto sostenava il collega, hanno il problema del vincolo. Nel senso che se fosse necessità improvvisa di dover liquidare o riscattare gli strumenti, si potrebbe andare incontro a un rischio prezzo dei costi, certo, di uscita, o alla rinuncia degli interessi guadagnati o promessi nel caso del conto di deposito, certificato di deposito, e quindi vanificando l'opera di risparmio, certo, e l'accrescimento del proprio. Diciamo che con la chiarezza di obiettivo che ha il nostro ascoltatore, forse alternative alla scelta che ha fatto ce ne sono poche. Poche, ripeto, quelle tre praticamente che ho fatto, che corrispondono a un rischio emittente, perché ricordiamo che anche lo strumento obbligazionario, nonostante offra il nominale a scadenza, un flusso cedolare che nel caso di obbligazioni signore non strutturate normalmente è certo, corrisponde comunque a un rischio emittente, un rischio credito alle sue spalle. Alternative effettivamente con le esigenze che ha, quindi arricchire il proprio reddito annuo senza andare a intaccare il capitale, e anzi deve pagarci il mutuo con il rendimento, esatto, della sua liquidazione, sostenere il vincolo. Effettivamente alternative, al di là di qualche OCR di risparmio gestito a breve che distribuisca dividendi, non ce ne sono, però in quest'ultimo caso il rischio prezzo nel caso di una variazione di tassi di interesse è presente. Voleva aggiungere qualcosa Brambilla? Sì, no, sui io ho un'opinione un po' diversa per quanto riguarda i fondi a cedola fissa, perché ahimè abbiamo tanti prodotti che offrono cedole assolutamente fuori mercato, con dei costi sia di entrata che eventualmente di uscita nel periodo di vincolo molto molto alti. E il rischio è che se un fondo oggi offre, seppur un fondo chiuso a scadenza 3-4 anni, offre un rendimento, una cedola del 4%, capite che se il rendimento nella curva dei tassi a 4 anni è sotto il 4%, perché questa è la realtà, siamo a 4,20 a 10 anni, quindi su 4 anni siamo tra il 2,80 e il 3, ovviamente non possiamo dare una cedola del 4%, vuol dire che il capitale che noi investiamo viene decurtato per dare la cedola al risparmiatore, e quindi poi alla fine dei 4 anni rischiamo, oltre ad aver avuto dei costi molto elevati, rischiamo di non avere più i nostri 100 che abbiamo investito, ma di averne magari 90, perché sono serviti a pagare la cedola del 4%, mentre invece con un fondo aperto a breve termine, anche senza la presenza di dividendi, c'è la possibilità di fare dei rimborsi programmati, mm-hmm. per cui se il fondo genera un profitto nell'arco dei prossimi 3 mesi, uno può disinvestire la parte di profitto che ha fatto mantenendo il suo capitale iniziale. Quindi forse questa seconda certo. ipotesi è più consigliata dal mio Sono punto di vista. Sono scelte che bisogna ponderare veramente con certo. grande attenzione. E allora, intanto Fabrizio ci scrive anche: il conto di deposito garantisce anche il capitale a differenza degli altri strumenti finanziari. È vero, per un tetto c'è il fondo interbancario di tutela dei depositi, però insomma non per questo non c'è il rischio emittente. Se si deve attingere al fondo è perché evidentemente qualcosa è andato storto. Allora ci fermiamo perché ci sono i suggerimenti per chi è in viaggio. 800 24 00 24, numero verde per continuare a prenotare i vostri interventi. Vedo tante telefonate, ci state chiedendo di singoli titoli, sapete che non rispondiamo più su questo. Un ascoltatore dice: ho azioni SEAT e pagine gialle, che fine hanno fatto? Hanno avuto una mancata approvazione appunto del bilancio da parte della società di revisione proprio pochi giorni fa. Un'altra tegola su questa azienda. C'è chi ci scrive su Banca delle Marche, di cui abbiamo parlato tanto ieri con Fabio Pavesi a Focus Economia, e allora su questi temi non ci ritorniamo, ma torniamo su altri a tra poco. Eccoci ritrovati in diretta, 800 24 00 24, il numero verde se volete continuare ad interagire con noi sul tema di questa mattina. Parliamo dei vostri risparmi. Non è che perché siete sotto l'ombrellone tranquilli a guardarvi un bel panorama azzurro e cristallino davanti a voi dovete abbassare la guardia su questi argomenti. Magari ascoltateci, fateci qualche domanda e poi a settembre fate delle scelte eventualmente, oppure mantenete tutto fermo perché ne avete fatte corrette. Oggi il Sole 24 Ore affronta il tema dei corporate bond, delle obbligazioni societarie, che sono appunto degli strumenti di investimento non so quanto gettonati dalle famiglie italiane, perché in realtà il taglio di investimento appunto su questi prodotti è piuttosto alto. Brambilla, mi sbaglio? Beh, su alcuni emittenti sì, non tutti, perché ci sono poi emissioni anche sì, con certo, taglio minimo. Se vai a vedere l'obbligazione bancaria certo. è chiaro se considera. Sono degli strumenti appunto remunerativi, appunto che cosa c'è nel panorama del mercato in questo momento? Beh, noi per esempio abbiamo un fondo specializzato sui corporate bond, quindi Acomea Corporate, che appunto investe in emissioni societarie. Beh, diciamo che sono strumenti che hanno un livello di rischiosità un pochino più elevato rispetto alle tradizionali obbligazioni, ma che offrono obiettivamente dei rendimenti un pochino più allettanti. Quindi diciamo è tipicamente un prodotto che, seppur nella categoria delle obbligazioni, quindi con un rischio contenuto, hanno un livello di rischiosità più elevato, perché ovviamente hanno un emittente che ha una rischiosità più elevata certo. rispetto all'emittente statale. E per cui, per fare un esempio, l'Italia può stare in piedi senza che una società esista, ma la società è difficile che possa rimanere in piedi senza che esista lo Stato italiano. Certo. Quindi da questo punto di vista. Anche se in realtà poi queste emissioni hanno dei rating differenti rispetto ai paritetici, appunto, rating dei titoli di Stato. Sì, certamente. Non c'è sempre corrispondenza. No, non c'è corrispondenza. Ovviamente dipende molto dalla situazione, diciamo, finanziaria delle aziende che le mettono. Oggi per esempio noi stiamo guardando un'emissione 2033 della Telecom Italia che ha rendimenti intorno al 7,20-7,25%. Ovviamente, le agenzie di rating stanno continuando ad intervenire certo, sull'azienda. Certamente, il problema è quello: se dovesse esserci un abbassamento del rating sulla Telecom Italia, sicuramente il rendimento andrà ad incrementarsi, però ecco, diventa un'occasione importante, perché oggi con una situazione di rendimenti abbastanza contenuta in generale, avere un'obbligazione che ha un rendimento di questa portata, insomma, di questa portata è importante. Ecco, è ovvio, non si va ad investire cifre esorbitanti su un'obbligazione di questo genere, però all'interno di un fondo corporate può essere tenuto in considerazione. Non ho ricordato una cosa, la nostra solita informazione di servizio, cioè il tema che propone domani Plus 24 del Sole 24 Ore come storia di copertina. In vacanza gli italiani utilizzano con più frequenza le carte di credito, soprattutto all'estero, così come nell'area extra euro devono fare i conti con la valuta locale. Quindi domani consigli per spendere meno ed evitare problemi che possono compromettere la vacanza con l'utilizzo appunto delle carte. Allora, un ascoltatore, Sergio, state. Fabrizio era quello che ci aveva segnalato che il conto di deposito al fondo interbancario. Sergio ci scrive: per i miei figli investo da 3 anni 100 euro al mese su un fondo mercati emergenti. Devo continuare o meglio cambiare? Francesco Leghissa: potete avere voi consulenti idee diverse su tante cose, ma credo che sul piano di accumulo la visione è abbastanza univoca sull'utilizzo di questo strumento di investimento, diciamo su questa modalità per investire su mercati soprattutto molto lontani. Sì, però l'accumulo normalmente è uno strumento che viene utilizzato in zone temporali piuttosto lunghi, in questo caso appunto risparmio per i figli, non abbiamo notizie aggiuntive, ma di solito si parla di risparmio superiore ai 10 anni, in cui ogni mese viene fatto un piccolo versamento aggiuntivo su un fondo, normalmente con un fondo che offre un profilo di rischio un po' più elevato, normalmente si parla di fondi azionari, e la tecnica del piano di accumulo permette di mediare il prezzo medio di carico, quindi di acquisto delle quote mese per mese, andando così un po' ad attutire la volatilità che questi fondi azionari effettivamente normalmente esprimono rispetto a asset class un po' più contenute come può essere l'obbligazionario. Per quanto riguarda lo specifico, quindi a fondi azionari paesi emergenti con orizzonte temporale effettivamente molto lungo, l'idea è condivisibile, gran parte della crescita futura del globale molto probabilmente arriverà da questa classe di paesi, nonostante la correzione che hanno avuto in questi mesi, che potrebbe trasformarsi in un'ulteriore possibilità o comunque un ulteriore fatto positivo per poter abbassare prezzi di carico già in essere, quindi è un'occasione di ingresso, e con il temporale lungo e con un livello di rischio adatto a questo tipo di investimento, nonostante appunto il piano di accumulo tenda ad abbassare la volatilità dell'investimento nella sua vita media, potrebbe essere un'idea interessante. Insomma, il futuro è probabilmente la voce grossa dell'economia mondiale, negli anni a venire arriverà da quella parte del mondo. Certo. Allora, facciamo un piccolo focus, Brambilla, sulla Cina, perché ci appassiona sempre quest'area, soprattutto negli anni passati ci ha appassionato quando vedevamo questi tassi di crescita a due cifre che noi ci possiamo solo lontanamente sognare. Poi la Cina ha deciso di raffreddare un po' la sua crescita, di crescere di più a livello interno, esportare un po' meno, e questo cambiamento drastico appunto di strategia economica effettivamente ha raffreddato anche un po' le borse di riferimento. Che cosa dobbiamo fare con queste aree se scegliamo appunto di investire un po' del nostro risparmio in questa zona? Beh, innanzitutto credo che se si scelga di fare un investimento nelle aree emergenti convenga farlo a livello globale, perché poi ogni singola area, anche all'interno delle singole aree, il singolo paese ha delle dinamiche differenti. Quindi l'idea di fondo è di essere più diversificati possibili, anzi addirittura io suggerirei al piano di accumulo di aggiungere magari alla parte emergente, o di splittare la parte emergente anche con la parte core dei mercati, perché è vero che la parte emergente è quella che ha più crescita, ma è anche vero che è quella che a oggi, nonostante quest'anno sia rimasta un pochino più indietro rispetto agli altri, ha quella che ha è l'area che ha le valutazioni più elevate. Quindi da questo punto di vista forse conviene tenere un po' diversificato l'investimento. Per quanto riguarda la Cina in particolare, è forse tra i paesi emergenti quello che dal punto di vista di investimento a medio e lungo termine è forse quello più appetibile, perché questa transizione che ormai è in atto da tempo proprio di modello di crescita tra una crescita orientata all'export, come è stata fino al 2006-2007, e come tutti sappiamo bene, alla crescita interna, ci hanno invaso con i loro prodotti. Esatto, questo cambiamento di modello è stato ed è pagato in termini di prezzi di mercato, quindi c'è stata una correzione significativa, proprio perché la crescita non è più a doppia cifra ma è a singola cifra, seppur elevata. Eh sì, sempre se intorno all'8-9. Certo, siamo sempre tra il 7,5 e l'8%. C'è attenzione da parte delle istituzioni cinesi a mantenere comunque un minimo di crescita. Quindi da questo punto di vista il mercato, secondo me, ha valutazioni interessanti. È forse un momento in cui non è particolarmente di moda e sulla bocca di tutti, forse è il momento buono per poter piano piano sulle eventuali debolezze andare ad accumularne un pochino, sempre all'interno di quella premessa che ho detto prima di investimento il più possibile globale. Certo. Allora, stiamo andando verso la chiusura, ci mancano 2 minuti, vi assegno una quarantina di secondi a testa appunto per andare verso la conclusione. Francesco Leghissa, guardando all'autunno, nessuno di noi ha la sfera di cristallo, ma voi sicuramente un'idea su quelli che saranno i temi caldi dell'autunno, non dico dal punto di vista industriale e sindacale perché sono altri i problemi, ma dal punto di vista, diciamo, del risparmio, del panorama degli investimenti, a che cosa dovremo tenere sotto controllo? A livello di market mover per l'inizio dell'autunno, probabilmente le due grandi appuntamenti sono due dal punto di vista americano e con influenza a livello globale, come abbiamo detto nella giornata di oggi, le decisioni della Federal Reserve, quindi della Banca Centrale Americana, vedere se effettivamente, come molti si attendono, l'operazione di tapering avrà inizio tra fine settembre e inizio ottobre, soprattutto di che ammontare, quindi l'impatto che potrà avere sulla liquidità a livello mondiale. E a livello europeo invece un appuntamento più politico, che sono le elezioni tedesche del 22 di settembre, se non erro, che potrebbero portare a una svolta nella gestione della crisi europea dal punto, di vista, dal punto di vista politico. Dipenderà molto da che maggioranza avrà la Merkel se dovesse essere rieletta, come i sondaggi sembrano indicare. E vedere come si porrà l'Unione Europea nei confronti della crisi e delle misure d'austerity che sembrano essere messe già fortemente in discussione. La ringrazio per non aver inserito nei temi caldi anche la politica italiana. Brambilla, lei come la vede? Ci dobbiamo preoccupare? Mamma mia, 40 secondi sono pochi. No, per dare, guardi, una neanche 20 adesso. Neanche 20. Vabbè, la situazione politica italiana è abbastanza chiara a tutti, insomma. Che tolgano sta mini patrimoniale intanto. Questo sicuramente, anche se ovviamente sarà difficile, però. Credo che, insomma, la situazione politica italiana sia abbastanza critica. Critica, quindi attenzione. Abbiamo bisogno di una forza nuova, una forza, un nome nuovo, forte, importante. Eccoci qua. Allora, alla prossima. Grazie, ci sentiamo stasera a Focus Economia. Grazie a Francesco Leghissa, Giovanni Brambilla. Buona giornata a tutti.